il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci insieme, ecco, cioè, un po' di sta ruggendo il microfono, ci guardavamo così un po' storto perché sembrava che avesse delle difficoltà, invece eccomi qui squillante come sempre con voi per raccontarci ogni settimana quali sono le notizie che si sono succedute una dopo l'altra, moltissime anche in questi giorni. C'è chi si rallegra per esempio di questa estate prematura, c'è chi invece dice ci sono delle anomalie, evidentemente è proprio vero che non ci sono più le mezze stagioni, quindi vedete come mai, come non mai questo titolo che scelsi già parecchio tempo fa è estremamente attinente ai tempi che stiamo vivendo e naturalmente anche in senso metaforico. Stavo guardando adesso le ultime notizie sui siti, ce ne sono ancora molte rispetto a quelle che ho raccolto durante la settimana, ma poi ci aggiorneremo, mi aiuterete anche voi come sempre all'800 24 00 24 a commentarle, a ricordarle. Ve ne dico come sempre qualcuna all'inizio, non è che quelle che non cito siano escluse naturalmente, è giusto per fare una sintesi e non andare avanti fino alle 3 quando finisce il programma. Intanto vorrei darvi subito una brutta notizia che già avete sentito ieri verso il pomeriggio in serata, e cioè che le bollette aumentano, cioè una bella stangata adesso tra aprile e maggio. Dal 1 aprile le tariffe del gas aumenteranno dell'1,8% per un aggravio di 22 euro diciamo circa per famiglia, poi invece l'energia elettrica aumenterà del 5,8% per poi avere un altro 4% da maggio, quindi fate un po' i vostri calcoli. Questa è la brutta notizia. C'è invece quella che io considero una gran bella notizia, che è una notizia che riguarda la giustizia. È stata ieri c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano, della Corte d'Assise di Milano, pardon, sul, vi ricordate, la donna, la giovane donna che era scomparsa nel 2009, se non sbaglio, a Milano, sì, nel novembre a Milano, era una testimone di giustizia, poi si scoprì che era stata sequestrata da vari uomini, compreso l'ex compagno, sequestrata, vi immaginate che cosa possa esserle successo, uccisa, non certo con un colpo di pistola, e poi sciolta nell'acido, e ieri sono stati comminati 6 ergastoli ai suoi assassini, quindi questa mi pare un'ottima notizia a proposito di giustizia. Poi ce ne sono moltissime altre sulle retribuzioni degli italiani, sulla scia di polemiche che riguarda Monti nel suo viaggio in Asia e negli Stati Uniti, complimenti vari, qualcuno pare fantasma, ma insomma comunque è vero che stanno dando grande credito a Monti a livello internazionale, quindi stanno rivalutando un po' anche l'immagine dell'Italia, però aveva detto delle cose, sapete, delle frasi che hanno creato poi molto dibattito acceso in Italia. Aveva detto c'è grande consenso per il governo, per quello che stiamo facendo, mentre i partiti insomma se la passano piuttosto male. Bersani aveva detto guardate che ci sono cazzotti per tutti qui se non si lavora insieme. Poi sembra invece che Monti abbia un po' ritrattato, e qualcuno ha parlato di un'operazione Concordia, che in questo momento io come termine lascerei perdere, non è che porti moltissima fortuna insomma. E poi arriva il vertice che c'è stato tra Alfano, Bersani e Casini, forse c'è questo accordo elettorale che però scontenta le attuali opposizioni che sono Lega e Italia dei Valori, ma anche Sella, Napolitano con i suoi vari moniti e appelli, la riforma del lavoro che continua molto a far discutere, è arrivata anche in Italia la pillola dei 5 giorni dopo, anche la Spagna molto agitata per questa riforma del lavoro che la riguarda ancora più duramente dell'Italia, il viaggio del Papa a Cuba, insomma moltissime notizie. È morto Antonio Tabucchi, è morto anche Francesco Mancini ieri, portiere del Napoli, della Lazio, eccetera eccetera. Vedete voi, 800 24 0024, le notizie naturalmente sono moltissime, ce ne sono altre anche particolari, per esempio una fra queste che ci conferma che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Dicevamo, uno all'immagine, no, quando pensate a un animale estremamente intelligente, estremamente dolce, con cui si hanno dei contatti nonostante abiti in un ambiente che non è molto naturale per noi, se non per farci qualche nuotata, pescare, va bene. I delfini, no? Chi non ha una buona immagine dei delfini? Ebbene, ci levano anche questa certezza, ci levano anche questa poesia che ci ispirano animali come questi. Una ricerca americana sfata il mito dei delfini dolci, sensibili, eccetera, dice delfini buoni e simpatici in realtà sono animali opportunisti e violenti e uccidono per sfogare le frustrazioni sessuali. Li hanno studiati, dico che sono veramente terribili questi delfini. Ci fosse il carcere anche per i delfini, probabilmente sarebbero tutti in carcere, ma per fortuna non è così. A volte mi chiedevo nei mesi scorsi, quando parlavamo delle notizie della settimana, che cosa bisognava fare in Italia per finire all'ergastolo con tutti gli efferati omicidi, violenze sessuali, cose terrificanti anche che mi capita di leggere tutti i giorni, almeno in questo processo che riguarda la povera Lea Garofalo, insomma. Per il momento ci sono stati questi 6 ergastoli, ma dicevamo, visto che già Fabio correva, diciamo, per andare a salutare l'opinionista estemporaneo di oggi, salutiamolo. Chi è, signori e signori? Ecco qua, Gianrico Carofiglio. Gianrico, stai scrivendo un altro romanzo? Pensavo. Intanto aspetto l'autorizzazione a entrare in scena, sono un ragazzo educato. Ecco qua, ho aperto il sipario, puoi entrare in scena tranquillamente, Gianrico Carofiglio, chi non lo conosce, scrittore, tradotto in 24 lingue nel mondo. Tra l'altro mi sono chiesta, cioè, se faccio l'elenco di 24 lingue non mi vengono in mente tutte quelle che potrebbero essere, poi magari ce ne dici una un po' strana, particolare, in cui sei tradotto. Dico subito una veramente strana, lo Swahili. Cos'è? Swahili, la lingua del Kenya e di altri paesi dell'Africa centrale. Pure in Swahili ti leggono. Quella devo dire è una bella soddisfazione in Swahili. E poi Gianrico Carofiglio è anche magistrato e anche parlamentare dal 2008, è uscito col suo ultimo romanzo Il silenzio dell'onda per Rizzoli, ma mi sorge subito una curiosità, Gianrico, siccome in questi giorni, sai, c'è stato il viaggio del Papa in Messico e a Cuba, insomma un po' rimbrottato Castro, mi raccomando, il marxismo archiviamolo, cerchiamo modelli più moderni, però diciamo che Castro, anche perché non sta bene, invecchiato, insomma, è stato con lui molto tranquillo, molto pacifico, come del resto era stato anche con Wittila, ma in questo caso addirittura ha chiesto al Papa di consigliargli dei libri. Allora mi è sorto il dubbio, vuoi vedere che il Papa potrebbe avergli suggerito anche il tuo ultimo romanzo? Il senso, mi sembra secondo altamente te? Probabile, anche vero, perché è appena uscita l'edizione in spagnolo, quindi non dovrebbero essere neanche ostacoli linguistici. Infatti, in Swahili è uscita? No, sta per uscire, quella del primo però, Testimone inconsapevole. Testimone inconsapevole, quella in Swahili. Benissimo, quindi ecco, adesso mi sento più tranquilla, il Papa insomma, nell'elenco avrà proposto anche il tuo. Gianrico Carofiglio, quindi Il silenzio dell'onda, ne ha scritti moltissimi, Gianrico, di libri, a parte le pubblicazioni giuridiche, poi dal 2002 si era messo in testa di cominciare a scrivere invece della letteratura, dei romanzi, questi gialli anche con il tuo personaggio, l'avvocato Guido Guerrieri. Questo è un romanzo un po' diverso, non è un thriller, non è un giallo, Gianrico. È un romanzo decisamente diverso, sia come tipo di personaggi che come ambientazione, in parte per le tematiche e, come posso dire, per il timbro narrativo. Qualcuno ha parlato, con una definizione che ci può anche stare, di realismo magico. Esiste una parte della storia riconducibile a questa categoria, ma certo è certamente un momento di passaggio, di cambiamento di marcia, insomma, nella mia personale storia di scrittura. Gianrico, c'è, visto che tu comunque, a parte quest'ultimo romanzo molto bello, anche dalla copertina devo dire, molto, molto fine questa onda. È bella la copertina, bella, anche a me, non l'ho scelta io, quindi posso dirlo, diciamo, super parte. Me l'hanno proposto, ho detto che mi piaceva. Sì, e la copertina, come il viso di qualcuno, insomma, bello, brutto, ma che sia espressivo, che comunichi qualcosa, è importante naturalmente, è il biglietto da visita. Però, visto che tu hai scritto anche diversi gialli, thriller, io volevo subito sottoporti dei gialli e chiederti possibilmente una soluzione, almeno un'interpretazione, Gianrico. Spero che caschi male, ma comunque Io ci provo. Allora, uno è questo. Tu sai che c'è stata tutta questa polemica perché Cicchito, capogruppo del PDL, avrebbe telefonato a Obama nel momento in cui Obama faceva un elogio a Monti. Quindi è sorto tutto questo, una bufera, dico, possibile che questo chiama proprio nel momento, ma ancora più possibile è che Monti risponde mentre lì con Obama a Cicchito, dico, vabbè, ti chiamo dopo, rispondo dopo, spegniamolo. Ma a parte tutto questo, è venuto fuori che invece questo elogio, un elogio fantasma, non c'è stato, non è vero, non ha detto, ma secondo te, da dove è nata questa cosa? Tu che sei esperto appunto di gialli, è stato il maggiordomo a diffondere. Non sono molto esperto di comunicazione politica, su quello sono piuttosto scarso, credo che dovrei rivolgerti a qualcun altro per questo. Potrebbe essere... sfuggono alla mia capacità di comprensione. Potrebbe essere stato il maggiordomo di Obama a diffondere la notizia. Il maggiordomo è possibile, sì, dobbiamo ragionarci, io farei un'approfondita indagine sul maggiordomo, acquisirei i suoi tabulati telefonici e poi dopo insomma potremmo parlarne in un'altra puntata. Ecco, mentre aspettiamo l'altra puntata c'è un altro giallo però, diciamo ancora più intrigante, assillante se vuoi come interrogativo. Non difficilissimo trovare uno più intrigante di questo. Vero, quello abbastanza, poi internazionale, un giallo internazionale. Invece c'è un altro proprio, diciamo nostrano questo giallo, è proprio tipicamente nostrano questo giallo. È venuto fuori ieri dalle dichiarazioni dei redditi, dal fisco, dai dati che sono stati divulgati, che in Italia gli imprenditori dichiarano redditi inferiori ai dipendenti. Com'è possibile? Il mistero, come possiamo dipanare questo mistero? Tutti vogliono il reddito fisso perché è una vitaccia quella dell'imprenditore. Immaginati uno che costruisce palazzi, case, strade, campare con 12-13 mila euro all'anno è veramente dura. Loro hanno veramente la mia solidarietà, è una vita difficile. Bene. È una vergogna, diciamo così, tutta italiana, alla quale io credo che si stia cominciando a porre rimedio, perché la mia impressione è che la determinazione del governo e dell'amministrazione nella lotta all'evasione fiscale sia per una volta finalmente autentica. Infatti hanno parlato, Befer ancora ha parlato dell'Agenzia delle Entrate, di prossimi blitz stile Cortina. A parte i blitz stile Cortina, questo la questione centrale è il controllo dei flussi finanziari, il controllo delle posizioni bancarie e via discorrendo. Però mi piacerebbe, qui parlando seriamente, per un po' aggiungere una cosa. Tutto questo è importante e sacrosanta l'indignazione rispetto a questa vera e propria vergogna. Non dimentichiamoci però che poi questo è un paese in cui quando ci sono contribuenti che dichiarano perché li guadagnano un sacco di soldi, scatta la polemica sul fatto che guadagnano un sacco di soldi. Recentissima è quella sul Ministro della Giustizia Severino, che dichiara 7 milioni di euro. Ma insomma, che volete? Cioè, no, è in gamba, ha uno studio enorme, c'è un sacco di clienti. Paga milioni di tasse. Paga le tasse, evidentemente. Bisognerebbe prestare un pochino di attenzione alla coerenza degli argomenti. Comunque metà degli italiani, secondo questi dati diffusi ieri, sono sotto i 15.000 euro, uno su tre non supera i 10.000 euro l'anno, la media è di 19.250 euro e solo l'1% dei contribuenti italiani, siamo tutti poverissimi, dichiara redditi superiori ai 100.000 euro. Quindi potete immaginare un paese tipo il Kenya, insomma, a proposito della lingua in cui sei tradotto, una cosa così. Non ti chiedo, abbiamo la viabilità, mi verrebbe voglia anche di chiederti il mistero dei soldi portati in Svizzera da Fede rifiutati, cioè uno in Svizzera prende i soldi pure, non lo so, dello Yeti. È un complotto comunista contro Fede, chiaramente. Possiamo dire, senza tema di smentita, che continua a essere il tema più dibattuto la riforma che riguarda il mercato del lavoro, in particolare l'articolo 18, e sembra che si allarghi un po' il fronte di coloro che sono poco d'accordo. In questi giorni anche Famiglia Cristiana ha scritto qualcosa contro questa riforma dell'articolo 18, temendo un po', come dice la CGIL, come parte del PD, che insomma possa aprire a facili licenziamenti, anche se ieri la ministra Fornero diceva no, in realtà non è così, noi intendiamo dare più opportunità ai giovani. Tu, Gianrico Carofiglio, che idea ti sei fatto di questa riforma e di questo dibattito così acceso in particolare su questo articolo, famoso articolo 18? Insomma, in questo dibattito, come accade normalmente su temi politicamente controversi, ci sono posizioni o parte di queste posizioni che hanno un contenuto sostanziale e altra parte un contenuto legittimamente ideologico, e i contenuti legittimamente ideologici poi tendono a concentrarsi su qualcosa di simbolico. La questione dell'articolo 18 è una questione anche simbolica, questo naturalmente non significa che il problema non esista, esiste e come, io credo che verrà risolto con una soluzione di compromesso, che è una bella parola, non è una brutta parola, una mediazione. Compromesso significa mediare fra interessi opposti ugualmente meritevoli di tutela in Parlamento, e io credo che la riforma verrà approvata. Tu, al di là che si trovi un punto comune, ma proprio in particolare sull'articolo 18, dici è simbolico? C'è una componente fortemente simbolica nella polemica sull'articolo 18, perché un braccio di ferro, i temi del licenziamento, della possibilità di interrompere la vita lavorativa di un lavoratore subordinato, che si gioca molto anche della dimensione ideologica, direi quasi dell'immaginario dei rapporti fra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro. Ma nel simbolismo, attenzione, non c'è nulla di male. È bene però, diciamo, sottolineare che c'è appunto una parte di evocazione simbolica e una parte sostanziale. Nel complesso la riforma a me sembra un tentativo interessante di svecchiare il nostro mercato del lavoro, nella prospettiva anche e soprattutto di dare garanzie a chi oggi non ne ha affatto. Non dimentichiamoci che ci sono garanzie per chi ha il posto di lavoro a tempo indeterminato, che deve continuare a essere garantito, sia ben chiaro, ma ci sono anche tantissimi giovani soprattutto che oggi lavorano in condizioni di sostanziale permanente precariato, e per aiutare anche loro, per rendere più facile l'accesso al mondo del lavoro di chi ancora non ha avuto questa opportunità, che è la riforma si fa. Stavo adesso sulla prima pagina del Corriere Online. In Canada ci sono i deputati che si prendono pugni sul ring per una questione di beneficenza. Forse può darsi che Bersani si rifacesse una cosa del genere, quando ci sono cazzotti per tutti. Sì, infatti, no? Vedere chi è in grado poi di andare sul ring. Non sarebbe male in Italia di vedere chi si potrebbe fare volontario di questa performance. Cominciamo a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori all'800 24 00 24. Gianrico, c'è Daniela da Roma. Daniela. Buongiorno, volevo puntualizzare una cosa. Premetto che sono un dottore commercialista, sono stata una delle prime donne diciamo in questa professione, e sono turbata quando ho sentito anche lo scrittore, il magistrato, io faccio anche il giudiziario, dire che è arrabbiato, giustamente, però spesso l'informazione è errata. Vorrei fare un semplice esempio. Le statistiche sui redditi vengono fatte sulle dichiarazioni dei redditi, ma le dichiarazioni dei redditi hanno tante formalità di esecuzione, per cui può essere tratto in inganno. Faccio un esempio semplice: mettiamo che ci sia un italiano, magari residente all'estero, che prende 1 milione di euro di compensi. Da questo 1 milione di euro vengono detratti il 30%, cioè 300.000 euro, sì. Ma sulla dichiarazione dei redditi, essendo imposta a titolo d'imposta, viene ovviamente da chi eroga subito trattenuta, ma non viene messa nella dichiarazione dei redditi, esattamente come chi ha i BOT, che sui BOT c'è il 12,50%, non li dichiara, però lo Stato prende il 12,50%, per cui uno può avere essere soggetto al 30%, diciamo proprio secco, nel senso che equivale. No, Daniela, ho capito, ci sono adesso questioni tecniche, mi pare un po' strano che però solo l'1% con questi esempi, l'1% dei contribuenti italiani dichiari redditi superiori ai 100.000 euro, e che metà degli italiani sotto i 15.000 euro. Mi sembra un po' strano che possa dipendere solo da questi aspetti, Daniela, no? È questo che insistevo, perché su questi redditi non risulta nella dichiarazione dei redditi, risulta in un altro modello, è inutile andare nel tecnicismo, per cui quel signore che ha preso 1 milione di euro, dal quale, faccio l'esempio, no? È stata detratta 300.000 euro, la sua dichiarazione potrà essere non esserci, oppure se ha un immobile, dichiarare un immobile, per cui lui risulta con un immobile che magari dichiara 1.000 euro, per cui viene, questo cambia molto, perché ci sono molte persone, tipo per esempio chi vive di botta, tanto per dire, no? Per cui insomma, il discorso è il solito della statistica, ma questo è veramente un discorso fiscale. Perdonami, Daniela, mi convince un po' pochino, sarò ignorante, io non sono né fiscalista né commercialista, niente di questo, né economista, nulla di tutto questo, però mi sembra un po', diciamo, che con i dati così sovrannumero che sono arrivati, potevano essere qualche caso, una piccola percentuale, ma così addirittura altissima come i dati che elencavo prima, che sono stati dati appunto dal fisco in questi giorni. Che ne pensi tu, Gianrico, caro figlio? Cioè, può essere una spiegazione questa? Francamente, diciamo, la mia impressione è che si faccia riferimento a qualche singolo caso, appunto, delle eccezioni, che non ha nessuna influenza sul ribilanciare il dato statistico, che è un dato pauroso, perché il calcolo va fatto con riferimento alla ricchezza che produce un paese e con riferimento alle tasse che vengono pagate su quella ricchezza prodotta, in termini, come dire, macroeconomici e macrofinanziari. E confermo purtroppo che è vergognoso che ci sia una percentuale così ridotta di cittadini a dichiarare redditi superiori ai 100.000, che, attenzione, non è una soglia di ricchezza. No, punto, però sembra strano, no, che tutti siano al di sotto di quella. Purtroppo non è affatto strano, è perfettamente comprensibile alla luce di un andazzo intollerabile che si, ripeto, credo che verrà presto, come posso dire, modificato da interventi efficaci. Grazie, Daniela. A proposito di interventi efficaci, vedo seconda notizia sul Corriere Online: Firenze, blitz della finanza alle botteghe Orafe. I finanzieri sul celebre Ponte Vecchio, tutti conoscete, per controlli fiscali alle botteghe appunto degli Orafi. Tra poco c'è Silvana da Pordenone all'800 24 00 24. Poi vorrei leggere anche alcuni dei tantissimi commenti che ci sono stati sulla pagina Facebook, quindi non ci sono più le mezze stagioni questa settimana, in particolare relativi ai temi riguardante il lavoro, la riforma del lavoro, certe dichiarazioni di Monti che ha detto, per esempio, da Tokyo: ho l'impressione che la maggioranza degli italiani percepisca questa riforma del lavoro come un passo necessario nell'interesse dei lavoratori. Poi vedremo se le ascoltatrici e ascoltatori, i facebookiani, insomma, si sono sentiti dentro questa maggioranza favorevole alla riforma oppure no. Tra poco. Però ora abbiamo naturalmente come unica trasmissione in tutto l'universo, come sapete, per chi è abituato ad ascoltarlo, se no una notizia ve la do adesso come uno scoop, noi abbiamo l'unico collegamento al mondo con un altro pianeta, con Marte. Riflessioni da Marte. Anche qui da Marte si avverte la vicinanza della Pasqua osservando il globo terracqueo da quassù, e in particolare puntando il telescopio sull'italico stivale sopraggiungono mistici pensieri. Ebbene sì, si scopre che il purgatorio esiste. Esiste già in versione terrena, voglio dire, più precisamente su suolo italico, e tra coloro che sono particolarmente sospesi vi sono gli esodati. Ma sì, li conoscete, quelli che non stanno né di qua né di là, né diciamo nell'inferno, se vogliamo dire, del mercato del lavoro, né nel paradiso dell'agognata pensione. Quelli, insomma, che erano stati incentivati all'esodo, come si dice, all'uscita da alcune aziende, perché prossimi alla pensione, e che adesso con la riforma delle pensioni vedono la pensione stessa, anche loro, col telescopio, come si guarda da Marte. Si trovano praticamente come in mezzo a un fiume, non possono ritornare sulla sponda dalla quale provengono, perché ormai la barca è bella che è andata, ma non possono nemmeno raggiungere la sponda a cui stavano per approdare, perché il traghetto ha annunciato col megafono che la partenza è spostata di qualche anno. Insomma, fuor di metafora, rischiano di ritrovarsi a pane e cipolle, che anche per l'alito non è proprio un granché. E a questo punto viene da chiedersi perché, quando mesi fa qualcuno aveva proposto, per fare un po' di cassa, di ritassare i capitali scudati rientrati dall'estero, subito si era convenuto che ciò avrebbe significato violare il patto tra Stato e proprietari dei capitali, e infatti li hanno lasciati stare, poverelli, mentre ora nessuno ritiene di violare un patto tra Stato e cittadini se si allontana di qualche anno la pensione a quelli che avrebbero avuto tutti i requisiti per andarci? Misteri della fede. E visto che parliamo di giustizia, questa settimana il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha concesso la detenzione domiciliare a Michele Aiello, condannato a 15 anni e 6 mesi per associazione mafiosa in un importante processo. Ebbene, secondo voi perché gli sono stati concessi i domiciliari? Perché malauguratamente egli soffre di favismo e dunque, dicono i giudici, il menù carcerario lo metterebbe in serio pericolo di vita. Notoriamente del resto in carcere, come sapete, si mangiano esclusivamente fave e dunque se il menù non è gradito, ecco che almeno per qualcuno scattano i domiciliari. D'altronde, se il menù di un ristorante non vi aggrada o vi dà delle intolleranze, ci rimanete? No, ed ecco quindi risolto il fatto. E invece finalmente scattata, dopo 3 anni, dico 3 anni di processo, la soluzione per quel ragazzo che quando aveva 18 anni, non so se vi ricordate, era stato accusato del crimine di aver rubato un ovetto Kinder da una bancarella. Poi ci sta anche perché è Pasqua. Il giovane che aveva dovuto rimandare l'arruolamento in marina per difendersi per 3 anni in tribunale da questa orrenda accusa è stato assolto perché il fatto non sussiste. In fondo, diciamolo, meglio un sospetto ladro di ovetti fuori che un mafioso malato di favismo in carcere con un menù davvero inappropriato. Che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. E ritorniamo subito con i piedi per terra. Tra l'altro, a proposito di inferno, purgatorio, paradiso, ci si sono messi anche contro le liberalizzazioni i farmacisti, avete sentito in questi giorni, che hanno cominciato a manifestare in piazza con degli striscioni con sopra scritto niente Viagra. Questa è la minaccia dei farmacisti: se non verranno accolte le nostre richieste non venderemo più il farmaco. Quindi immaginate, un esodato che neanche può avere gli, insomma, peggio di così non si può andare. C'è Ettore da Genova. Buongiorno. Buongiorno Ettore. Senti, volevo chiedere a lei, al suo gentile ospite, Gianrico Carofini, ne pensa di quegli imprenditori che si sono uccisi, sono suicidati in questo periodo, e se anche questi sono dei grandi evasori. Perché forse la realtà che c'è in Italia è, cioè, è facile dire gli imprenditori qui là su giù, poi voglio capire cosa si intende, nel senso che veramente la crisi c'è e spesso e volentieri chi ha una piccola azienda, chi ha una piccola impresa, magari risulta come IRPEF che paga poche tasse, ma in compenso la società, la ditta, quello che ha, comunque paga una montagna di soldi. Ettore, ma tu lo dicevi ironicamente, sono dei grandi evasori, non penso proprio si sono ritrovati. No, infatti non lo penso per niente, penso solo che però mi dà molto fastidio questo atteggiamento che c'è sempre, comunque, come dire, diamo per scontato che siano tutti dei ladri, che sia così, e non è vero. Perché no, chi lo delle... dice questo, Ettore? Lì si parlava, scusami Ettore, di dichiarazione dei redditi, e si parlava in linea generale, con grandi numeri. In linea generale, io le faccio presente che chi ha una piccola azienda, una piccola ditta, una piccola società, senza magari dubbio, come IRPEF paga poco, perché comunque i redditi sono quelli che sono, ma in realtà a monte ha comunque pagato un fracco di tasse delle società, delle cose, ha pagato un fracco di contributi ai dipendenti, e alla fine della favola vado un po' in giro a chiedere a quelli che hanno i negozi, tipo latterie, anche tanti bar e tante cose, gente di 50-55 anni che finito quello non fa nulla e si accontenta di lavorare magari 20 ore al giorno per guadagnare alla fine 1.000 euro. No, Ettore, comunque ascolta, Ettore, no, ti ringrazio di aver ricordato queste realtà, ma d'altronde le abbiamo avute anche sotto gli occhi, naturalmente, nella cronaca di questi giorni, che sono delle ripercussioni poi della situazione gravissima della crisi in Italia. Passer, il ministro dello sviluppo economico, ha detto che siamo in recessione ancora almeno per tutto l'anno, come minimo. Quindi la situazione è molto grave. Ci sono persone che non ce la fanno per davvero, insomma, ad andare avanti, e anche piccoli imprenditori. Non è che imprenditori significa sempre la stessa cosa, ci sono i piccoli imprenditori, ci sono grandi imprenditori, ci sono tanti di quelli onesti che lavorano anche con passione, e quelli che risultano sempre prendere meno di semplici dipendenti, insomma, che sembra una cosa, del resto non sono dati che sono stati tirati fuori dal cilindro, ma dall'Agenzia delle Entrate, quindi dal fisco. Ettore, ti ringrazio di questa cosa, e non mischierei questi due aspetti, no? L'evasione da una parte e questi piccoli imprenditori, o comunque persone rimaste in gravi difficoltà, che non hanno un po' di liquidità dalle banche, dei prestiti, e quindi poi decidono purtroppo di farla finita. Gianrico Carofiglio, volevo... Ma io direi soltanto due cose. Prima, grazie, prima di tutto, diciamo così, il grandissimo rispetto che si deve a gesti estremi e tragici come quelli degli imprenditori che si sono tolti la vita dovrebbe suggerire di non utilizzare questi episodi per ragioni polemiche. Certo. Chiarita questa cosa, che ha a che fare, come posso dire, con l'etica del ragionamento, con l'etica anche della polemica, nell'argomento che, o lo pseudo argomento che ci presentava l'ascoltatore, è nascosta una di quelle che si chiamano fallace. Siccome esistono dei piccoli imprenditori che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, e ce ne sono tantissimi, e meritano il nostro rispetto, e sono quelli più arrabbiati rispetto agli altri, dicevo, siccome ci sono questi piccoli imprenditori, allora è sbagliato dire che l'evasione è una vergogna. Ognuno vede come l'argomento sia sconnesso. Il problema è che chi è in difficoltà va il più possibile aiutato, chi invece sfrutta una situazione generale per guadagnare un sacco di soldi e per frodare il fisco non pagando le tasse, perché la mia domanda molto semplice è questa, prescindendo dai dati statistici, siamo tutti d'accordo? Tu, io, il signore che ci ha chiamato, sul fatto che evadere le tasse è sbagliato, perché questa è la questione principale. Poi si tratta di andare a vedere i casi specifici, ma se frodare il fisco, non pagare le tasse è sbagliato, io dico non solo è sbagliato, è un furto aggravato nei confronti di tutti gli altri cittadini, allora dobbiamo soltanto riflettere a come trovare i modi migliori per indurre tutti quanti a pagare le tasse, cioè a smettere di rubare dalle tasche degli altri cittadini. Giustamente. Tra poco c'è Silvana da Pordenone, ancora un po' di pazienza, Mirella da Bologna, sempre all'800 24 00 24, lo ripeto molto più tranquillamente, 800 24 00 24, numero verde per i vostri commenti sui fatti della settimana. E tra l'altro c'è la conferma, il primo titolo del Corriere Online, al workshop Ambrosetti a Cernobbio sul lago, l'intervento del ministro Passera che dice: sanzione sociale contro l'evasione, basta coi furbetti del fisco. C'è Rodolfo da Piacenza, c'è Silvana da Pordenone, Mirella da Bologna. Iniziamo da Silvana, che è lì da un po' aspettare. Silvana, grazie. buongiorno a lei e a tutti quanti. Intanto complimenti per Radio 24, perché mi alzo al mattino e mi viene voglia di suicidarmi ogni volta che sento tutte le trasmissioni, ma non perché... Ah, ecco, no, pensavo, mi sentivo responsabile. Di quello che è la realtà, no? Di quello che mi succede tutti i giorni quando esco fuori, non ho il tempo di leggere il giornale e Radio 24 mi aiuta. Ma finisco subito, sono una piccola cellula di questa Italia, una sognatrice, purtroppo, perché continuo a fare il mio mestiere, io e mia figlia da sole lavoriamo dalla mattina alle 9 fino all'una di notte. Che cosa fate, se posso chiedertelo, Silvana? Sì, sì, un piccolo ristorantino, senza troppe pretese, proprio io, mia figlia, finita di fare da mangiare, comincio a lavare i piatti, mia figlia pulisce e avanti popolo. Il problema è che io vado avanti, ok? Però mi sento che ho un trattamento dallo Stato di una pezzente dell'ultimo stadio della piramide famosa, no? Dove in alto ci sono i signoroni e sotto siamo noi che lavoriamo. I nuovi schiavi, i miserabili del 2000. Perché quando entra dentro la Guardia di Finanza non ha un'educazione di buongiorno signora, siamo qua. No, si fermi, cosa sta facendo? Cioè, ma cosa siamo, delinquenti? Ma io, no, io non sono una delinquente, io sono una che ama il mio mestiere, che avrebbe voglia di fare di più e che se ho 2 lire da parte, domani devo mettere l'aria condizionata, dopodomani devo andare a fare i corsi di aggiornamento, vorrei andare a Milano a vedere che cosa dicono le news. Sono, questa è la differenza di una persona che invece lavora 8 ore, giustamente, viene pagata, ma che non deve investire nel suo lavoro, cosa che invece dobbiamo fare noi. Cioè, tu sei una piccola imprenditrice con le sue difficoltà, questo volevi dire, Silvana. Ma non so se questo sia l'approccio, non credo, spero di no, della Guardia di Finanza ogni volta che entra in un locale, forse sono stati un po' bruschi. Guardi, le posso assicurare che abbiamo un trattamento africano a livello di educazione, invece abbiamo delle tasse svedesi a livello di prendere soldi. Io domani dovrò vendere il mio appartamento che ho già messo in vendita per poter arrivare a, comunque ho 53 anni, capisci? Devo finire la mia vita in qualche modo. Dove vado? Dove vado? Vado sotto lì al comune a chiedere datemi 500 euro al mese per vivere? No, devo andare avanti con le mie forze. Però siamo terrorizzati, perché non è modo, perché siamo piccole cellule pezzenti. E comunque la sua trasmissione è bellissima, io vi ascolto sempre, vi adoro tutti. Grazie Silvana, e io adoro te, il tuo lavoro, spero che tu continui a farlo con passione tra le mille difficoltà. No, l'alternativa poi mi piace, perché dovrei rinunciare. Meno male, almeno questo, tenete duro. Silvana, grazie. Buona giornata. A te. E adesso vorrei, Mirella e Rodolfo, leggere brevemente alcuni di tantissimi commenti, soprattutto appunto dicevo, relativi al mercato del lavoro, alla riforma del lavoro di questi giorni, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. E, sapete che Monti, dicevo prima, ha detto da Tokyo, ho l'impressione che la gran parte degli italiani, la maggioranza, capisca che questa riforma è nell'interesse dei lavoratori. Allora, Marco scrive... proprio così categorico, assolutamente no. Luigi, certamente sì, quindi subito due pareri differenti. Maria Grazia scrive no con circa 2700 no. Carlo dice ma si è montato la testa e dice ora, mentre all'inizio lo accoglievo, lo stimavo, ora prevale l'insopportabilità, scrive Carlo. Maria Cristina, Mario Nostro mente sapendo di mentire. Per Stefano dice credo proprio che gli italiani percepiscano esattamente il contrario. Alessio scrive no, per Bacco non sono d'accordo con Monti, non mi è piaciuto e anche con il passare del tempo, a differenza del vino buono, lui e il suo governo peggiorano. Insomma, pareri diversi. Lorenza scrive io so che non percepisco nulla da parecchi mesi or sono. Daniele dice non sono assolutamente d'accordo sul fatto che pensiamo per la maggioranza che la riforma del lavoro sia nell'interesse dei lavoratori. Silvia scrive forse ha chiesto solo alla casta e non al popolo. Lorenzo dice avrei diverse osservazioni da fare, altro che tacito consenso. Martin scrive forse a Marione nel lontano oriente non giungono le notizie degli operai dell'Alcoa, anche se adesso si è trovata una soluzione provvisoria sino a fine anno mi sembra per l'Alcoa, l'alluminio sardo. Degli ormai quotidiani suicidi di operai e imprenditori, della protesta e degli scioperi che si stendono a macchia di leopardo per l'Italia. Monti, vattene con te l'intero Parlamento, scrive Martin. Questo appello. Bianca dice Monti farnetica. Giuli dice esprime una certa autorevolezza, quelli che l'hanno preceduto no, quindi gli riconosce l'autorevolezza. Angelo dice ma quando mai, come fanno a misurare quanti approvano e quanti no? Una quantità dice che non si può contare. Mimmo scrive Monti per sua fortuna dice che ha l'impressione che per sua disgrazia invece i sondaggi che direbbero sì al suo governo e no ai partiti saranno fatti dagli amici della sua portavoce, che ha confezionato la bufala dei complimenti di Obama mai usciti dalla bocca del presidente americano. Dora scrive: ma è un'impressione. E Sergio dice: sicuramente questa riforma non fa gli interessi dei lavoratori, ma quello che è più grave è che secondo me non rilancia per nulla l'economia e perciò non fa neanche gli interessi delle imprese. Sentito Gianrico, caro figlio, cosa pensano molti? Sentito. Ma io credo che Monti faccia il suo lavoro anche, come posso dire, con qualche uscita di contenuto un po' propagandistico, e quella certamente lo era, fa parte di un gioco che si colloca su una scacchiera tattico-strategica per far andare avanti un progetto politico che uno può condividere o non condividere. Detto questo, io credo che i temi di cui si occupa in particolare la riforma del lavoro siano per la gran parte temi molto tecnici, sui quali è un po' difficile dare giudizi elogiativi o liquidatori così su due piedi senza aver letto accuratamente quello che c'è scritto e senza averci riflettuto su con estrema serietà. Detto questo, però, non c'è dubbio che insomma il governo deve, come posso dire, evitare di cadere nella trappola dell'eccesso di sicurezza, a volte si ha questo tipo di percezione, insomma in qualche caso trattare con maggior rispetto anche il dissenso di molti italiani rispetto alle scelte, diciamo, di senso che è inutile dire non solo legittimo ma a volte fondato. Ecco, in questo senso è appena arrivata un'agenzia, è stata battuta pochi istanti fa, una dichiarazione di Casini dell'UDC, dice: non è la riforma dell'articolo 18 che rischia di insabbiarsi, ma il governo. Lo ha detto il segretario dell'UDC Casini parlando al forum di Confagri, sollecitando una soluzione rapida del problema che ha detto è sul tappeto. Quindi è la prima volta, mi sembra, negli ultimi mesi che sia Casini a dire che il governo potrebbe essere in difficoltà. Mirella da Bologna. Io sono una libera professionista, nello specifico sono una consulente del lavoro, quindi sì, vorrei fare un intervento. Inizialmente avevo proposto questa cosa da dire. Effettivamente c'è una grossa forbice nel mondo del lavoro fra chi ha un lavoro, è un lavoro magari in un'azienda al di sopra dei 15 dipendenti, quindi con una tutela maggiore, e chi invece questo lavoro ce l'ha in aziende molto più piccole. Però c'è anche una stranissima illusione, io lo dico perché faccio buste paga, quindi sono una tecnica in questo senso, no? Anch'io, e anche una libera professionista, quindi col decreto liberalizzazione avrei molto da dire. Dicevo, c'è questa forbice stranissima in cui il dipendente, quello che è iperpagato, cerca in tutti i modi di eludere egli stesso per primo la fiscalità, quindi ricordo che dove c'è un'elusione fiscale c'è anche un'elusione. Il dipendente dici, fa, e come si fa? Molto spesso, allora è il classico caso che vengano messe in busta paga, per esempio le trasferte che vanno a coprire ore di straordinario. Ricordo che il decreto sulla detassazione degli straordinari non è poi andato più in porto, quindi è un modo per non pagare la tassazione. Ma quindi sono per prime le imprese a fare questa cosa in accordo con il lavoratore? Esatto, c'è una forte connivenza fra i due. Un operaio che ha un'alta qualificazione, che impone il prezzo di mercato, perché questo è il problema, no? Se sei molto qualificato, sei tu che riesci ancora a imporre il prezzo di mercato, soprattutto nelle piccole e medie aziende, non certo nelle grandi dove siamo a livello quasi di un ente pubblico. In Fiat non vai a fare il prezzo, lo vai a fare nell'azienda di installazione impianti, e sappiamo che la grande maggioranza delle imprese italiane sono aziende di piccole, medie e dimensioni. Questo tipo di elusione, perché non pago i contributi sulla trasferta, non pago i contributi sul ticket, non pago i contributi su altre, non sono molte ma esistono una serie di voci variabili, mi consente poi eventualmente di poter avere, che ne so, gli assegni nucleo familiare perché non fanno reddito, di avere non so l'asilo, e quindi si crea secondo me un certo sodalizio connivente tra alcune fasce, non sto dicendo tutti i lavoratori, ma tra molti lavoratori, soprattutto quelli iperqualificati, che in questo modo ti dicono: io non voglio pagare tutte queste tasse. Ed è un classico. Bisognerebbe, come si dice, detassare, si è detto tanto, il lavoro, no? In particolare. Mirella, ti ringrazio di questa consulenza tecnica, così ci hai dato un altro punto di vista. Adesso abbiamo Alfredo da Napoli. Alfredo? Salve. Sì, salve. Buongiorno. Buongiorno. Io dicevo, io sono assolutamente in queste condizioni a favore dell'evasione fiscale. Perché io... Siete? Sì, sentivo poi, sì, così... Io sono assolutamente a favore dell'evasione fiscale, perché io non riesco a capire per quale motivo devono rimanere in via di privilegio, tipo le auto blu, che in Italia ne circolano 200.000. Per cui io devo pagare le tasse per mantenere dei privilegi che non hanno nessun motivo di essere. Sì, ma secondo il problema, Alfredo, il problema è che poi non è che in questo modo ti rifai su quelli che le auto blu, hanno le auto blu, la casta, i privilegi, ma sui poveri contribuenti, cioè quelli che non possono scappare in nessun modo, capisci? Per lo più quelli che non hanno grandissimi guadagni. Capito, Alfredo? No, ma c'è tutto un meccanismo che io vorrei, almeno dal mio punto di vista, no, che dovrebbe essere messo in funzione. Noi diciamo che l'evasione fiscale in Italia è altissima, va bene? Sì. Per quale motivo il governo non ci viene a dire, se recuperiamo tot di evasione fiscale, le tasse scenderanno a questi livelli? Era stata una prima promessa di Monti, poi ha detto no, ma in realtà il tesoretto non c'è, quindi non creerei aspettative. Ma continuano ad essere soltanto promesse. Io vorrei che quella cosa, dato che io non mi fido dello Stato, va bene, non mi fido di qualsiasi governo arriva, e tantomeno mi fido dei politici, che secondo me, sempre dal mio personale punto di vista, con le morti che ci sono degli imprenditori, loro sono degli assassini, perché loro hanno istigato al suicidio. No, non direi questo, Alfredo, però, diciamo, capisco la tua esasperazione, tu però le paghi le tasse, vero? Paghi. Io le pago perché sono dipendente, quindi le devo pagare forza. Vabbè, almeno mi ho dato un sospiro di sollievo perché adesso mi ritrovo. No, io le pago perché sono costretto, ma capisco chi non le paga. Vabbè, Alfredo, diciamo che... Con un'evasione, diciamo con una tassazione al 60%, 68%. Lo so, ma diciamo che è uno sfogo, però insomma cerchiamo di colpire i furbi piuttosto che fare noi furbi. Grazie Alfredo, e adesso prima di riparlare con Gianrico Carofiglio andiamo subito all'appuntamento in mancabile anche questa settimana con la parola della settimana con la nostra linguista Valeria della Valle della Sapienza di Roma. Io ti direi, Valeria, visto il clima, c'è un termine che forse sta andando in pensione, concertazione, possibile? Concertazione, sì, come no, partiamo subito. Beh, è un caso interessante di parola che nel corso del tempo ha assunto un nuovo significato, potremmo quasi dire, in onore dell'ospite, che è un po' un caso di manomissione delle parole, o almeno di questa parola, perché oggi concertazione, lo sappiamo, indica il metodo consistente nel prendere decisioni di carattere economico e sociale attraverso trattative, accordi tra governo e parti sociali, e con questo significato oramai il termine è molto diffuso, prima si è diffuso come concertazione sociale, poi direttamente solo come concertazione, ma fino almeno agli anni 90 la parola era usata e conosciuta solo in campo musicale e indicava la preparazione di un'orchestra all'esecuzione di un brano musicale sotto la guida del maestro concertatore. Punto. E allora, come sempre, per concludere, vista la fatica, le difficoltà nell'organizzare concertazioni sociali, ecco, abbiamo qualche nostalgia per quelle unicamente e soavemente musicali. E ti lascerei con una musica, dunque, grazie Valeria Della Valle, in modo soave, mettiamo semplicemente la base, ecco, del programma. Per i capelli, procediamo invece. C'è Rodolfo da Piacenza. Rodolfo, tu riesci a dire tutto in 33 secondi? Perdonami, è proprio si sta aprendo la botola sotto la mia sedia. Sì, sarà un po' difficile, però no. Allora mi metto in tre slogan. Sì. I poveri purtroppo sono stagati, i ricchi no. Questo rientra nella logica. I poveri sono? I poveri sono? I ricchi non sono stagnati, questo rientra nella logica. Stangati. Ah, stangati, ecco. Sì. Questo rientra nella logica di chi attualmente detiene le leve del comando. Quelli che ce l'avevano prima erano impresentabili, quelli che ce l'hanno oggi sono presentabili, però la sostanza non cambia. Secondo me, credo che sia necessario che la gente si renda conto, e oggi mi pare che non se ne renda conto, che i sacrifici che ci chiedono non servono al paese, ma servono a mantenere in piedi un sistema. È chiarissimo, Rodolfo, sei stato chiarissimo, perdonami, ma molto flemmatico. E allora, mentre stiamo negli ultimi 43 secondi, Gianrico Carofiglio, mentre ricordo il tuo libro Il silenzio dell'onda, che poi è bellissimo, il silenzio appunto delle onde, non vedo l'ora di avvicinarmi al mare e sentire un po' questo silenzio musicale del mare. Ma volevo chiederti, a proposito di privilegi, cioè, tu sai che è stata votata, no? In Parlamento, a Montecitorio, ha votato la delibera sul fare in modo che lo stipendio che percepiscono gli ex presidenti della Camera finisca dopo 10 anni e non vada avanti a vita, no? E Casini ha detto, vabbè, allora sapete che faccio? Io rinuncio a questo privilegio, anche se sono già 6 anni se le presi, diciamo, di questa cosa qui. Violante ha detto che anche lui è stato ex presidente della Camera, ma in realtà è... ha detto praticamente è ipocrisia, perché poi certo non è uno che morirà di fame, Casini. Che ne pensi in 23 secondi, Gianrico? In 23 secondi io penso che non dovrebbero esistere i privilegi in generale, quindi quando uno cessa da una carica dovrebbe cessare ogni tipo di vantaggio legato alla carica che aveva in passato. La parola privilegio per l'appunto in sé ha un contenuto odioso. Noi dobbiamo essere capaci di distinguere privilegi da prerogative. Se uno ha una carica pubblica, questa carica pubblica a volte ha delle prerogative. Se io faccio il ministro, cosa che non farò mai, devo poter arrivare nelle capitali europee in cui è richiesta la mia presenza velocemente, possibilmente con un aereo che mi porta e mi riporta in modo rapido. Questa è una prerogativa. Ma se io ho fatto il presidente della Camera, quando finisce il periodo di presidenza della Camera torno un normale cittadino. Quindi io sono favorevole all'eliminazione totale di tutti i privilegi. Gianrico Carofiglio come ministro, vogliamo intanto scritto il silenzio dell'onda, poi vedremo come va a finire. Grazie Gianrico, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.